Dunque ragazzi, la volta scorsa ci siamo lasciati affrontando il tema dei peccati contro il primo comandamento inerenti la virtù teologale della speranza. Io speravo di concludere, a proposito di speranza, la volta scorsa, invece purtroppo il tempo è passato veloce e non è stato possibile concludere. Quindi vediamo, oggi però sicuramente dovremo finire questo primo comandamento che, compreso l'introduzione, ci ha portato via ben 9 conversazioni, quindi comunque va bene. So che per grazia di Dio queste nostre conversazioni stanno facendo bene a più di qualcuno, quindi ci prendiamo tutto il tempo che il Signore ci concede. Non abbiamo fretta di finire, abbiamo fretta e invece abbiamo sicuramente desiderio, ecco, di essere ben formati e di poter esclamare, ecco, con il Salmo 119, che la legge del Signore è perfetta e che quanto è bello osservarla e vivere da suoi veri figli. Ora, oggi dobbiamo aprire un ulteriore capitolo e quindi affrontare il tema dei peccati contro la carità. Vi ricordate che abbiamo chiuso, diciamo così, la sezione del primo comandamento occupandoci appunto dei peccati contro le tre virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. E già la volta scorsa abbiamo accennato, introducendo un po' questo tema, che la carità, dicevano i padri, è come una colomba con due ali, quindi c'è l'ala dell'amore di Dio e l'ala dell'amore del prossimo. Ovviamente, dato che l'ala dell'amore del prossimo è contenuta dal quarto al decimo comandamento, ovvero nella seconda tavola del Decalogo, avremo poi modo di approfondirlo. Quindi dobbiamo chiaramente occuparci di un tema molto importante, che è quello dell'amore di Dio. Allora, voi sapete che quando a Gesù gli chiedono, dice: "Senti un po', Gesù caro, qual è il comandamento più grande?" Gesù risponde: "Il primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze." Quindi lo facciamo questo, cioè capiamo che cosa significa questa cosa? Abbiamo mai confessato che non abbiamo amato Dio con tutta la mente, o con tutto il cuore, o con tutte le forze? Cioè, oggi sembra che i peccati, cioè nella coscienza comune, oggi c'è soltanto un peccato nella coscienza comune, eh? Sapete qual è il peccato? L'unico peccato che si possa commettere, quello per cui secondo qualcuno si va all'inferno in maniera inoppugnabile. Vediamo se qualcuno ci è arrivato a mente, ve lo dico io: non pagare le tasse. Non esistono altri peccati. Peccato che non esiste anche il peccato contrario di chi vessa questi poveri cittadini con tasse assurde e folli, che è peccato ben più grave di non pagare le tasse, d'accordo? Questo ricordiamolo sempre. E anche peccato molto grave è fare uso cattivo dei soldi dei contribuenti, come in Italia si fa spesso, da parte dei governanti, tipo, d'accordo, andare a pagare con le tasse nostre, con i soldi nostri, gli aborti. Perché se stiamo in una grande crisi, stiamo in questa grandissima crisi, cominciamo a tagliare un pochino di cose, nessuno si sogna di tagliare il Servizio Sanitario Nazionale, però mi spiegate dove sta scritto che un omicidio che lo Stato farisaicamente ha consentito con una legge debba essere pagato con i soldi miei, anche con i miei che sono un prete? Dove sta scritto questo? E poi andare a tagliare oppure a vessare a destra e a sinistra? Comunque, chiusa parentesi polemica, allora oggi gli unici peccati, guardate, oltre che pagare le tasse, qualcuno ritiene che sia peccato gravissimo i peccati laici, no? Ledere la libertà del prossimo, oppure non rispettare l'opinione altrui. Tu non ti puoi mica sognare di dire che la verità è una. Chi ti ha detto che la verità è una? Quello è quello che pensi tu, ma tu devi rispettare quello che pensano anche gli altri. Rispettare, secondo questi signori, non è inteso bene, cioè, perché rispettare nel senso che, cioè, noi siamo, come dire, abbiamo la possibilità di esprimere le nostre idee anche se sbagliate. Ma non ci si può permettere di dire che una cosa è giusta o sbagliata, perché secondo questi signori, i laici, o meglio sarebbe dire i laicisti, non esistono dei criteri oggettivi per chiamare bene, bene il bene e male il male. Quindi peccato gravissimo, pensate un po' chi osa dire questa è la verità. Pensate che grandi scienziati che sono. Ecco, anche tra i ragazzi, qual è il grande peccato? D'accordo? Cioè, quello che vi voglio dire è che si concepiscono peccati. Alcune cose che i peccati non sono affatto a volte, oppure che sono comunque delle circostanze di molto minore importanza rispetto ad altre ben più gravi, sostanziose e delicate. Capite? Cioè, qua dice: io non faccio nessun peccato, non faccio male a nessuno. Voi pensate quanti giovanotti? Quello è un bravo ragazzo, cioè magari è un bravo ragazzo semplicemente perché non si droga. Per carità sono cose positive, no? Perché diciamo che studi abbastanza e non fa grosse pazzie, tipo non si ubriaca o cose di questo genere. Poi magari che non va mai a messa, che non mette Dio al primo posto, che fa gli atti impuri e tutte queste altre cose, queste non sono cose che toccano l'essere bravo ragazzo. Da molte persone non sono neanche percepite come peccati. Ora, invece Gesù non dice così, dice che il primo comandamento, il più grande, il simile al primo, è quello che ti obbliga ad amare Dio. Cioè, attenti, eh. Dici, ma si può comandare l'amore? Si può obbligare l'amore? Certo, ragazzi, perché per comprendere bene questo comandamento dobbiamo anche resettare un po' la nostra idea di amore. Capite? L'amore non è un sentimento. Se lo spiega benissimo, bene, o meglio, non è solo un sentimento, cioè verso Dio, almeno come primo approccio, è difficile poter avere dei sentimenti, perché sentimento viene da senso, no? Sentimento, cioè un sentimento nasce quando tu vedi, tocchi qualcosa, quindi hai delle reazioni, ma a Dio non lo vediamo e non lo tocchiamo, quindi come può nascersi il sentimento dell'amore verso Dio? Certo, e questo ve lo auguro a tutti, se tu cominci a conoscere Dio e a frequentare Dio, a pregare, e a volte il Signore ti manda delle consolazioni sensibili, cioè ti fa sentire veramente il suo amore per te e quindi disponda il tuo amore per Lui, ed è una cosa molto bella. Però certamente se tu aspetti di sentire l'amore verso Dio, questo comandamento non lo metterai mai in pratica, perché il sentire l'amore verso Dio è sempre, come dire, esperienza che viene dopo, cioè viene dopo che tu già hai cominciato a frequentarlo e come vedremo subito vuol dire che già hai cominciato in qualche modo ad amarlo. Ora, l'amore, ragazzi, non è principalmente un sentimento, ma è un atto della volontà. Questo vale anche per i grandi, non soltanto per... cioè anche l'amore tra un uomo e una donna, generalmente... almeno nel nostro contesto, inizia da un sentimento, c'è un'attrazione, una simpatia da cui sorge l'innamoramento, la frequentazione e poi la conoscenza e poi il matrimonio. Generalmente questa è la sequenza che si registra. Ma a parte che questo non è sempre così e non è neanche auspicabile che l'unica cosa su cui si fondi il matrimonio sia l'innamoramento, perché l'innamoramento, ragazzi, ve lo dice uno che è stato innamorato e che adesso fa il prete, finisce. Non solo finisce, ma può cominciare per un altro. Cioè, quanta gente manda a appellare al matrimonio dicendo: che ci posso fare? Mi sono innamorato di un altro, io non ti amo più, mi sono innamorato di un altro. Guardate, questo può succedere a tutti, questo qua, eh. Non vi scandalizzate, questo può succedere anche a un prete. Un prete, perché? Perché un prete non è più un essere umano? Se non sta attento, gli può succedere tranquillamente di innamorarsi. Però gli succede di innamorarsi, cosa farà se è un buon prete? Si fa subito passare i bollenti spiriti, pensa ad altro, chiude ogni contatto con questa persona, perché non può assecondare questo sentimento, e poi gli passa. Quindi, ma non può dire per questo che ama quella persona. Mentre un prete, ve l'assicuro, ve lo dico io, può dire e a voce altissima che ama, e a volte molto più di chi non ha avuto questo grande dono da parte dell'Altissimo. Ora, l'amore è fondamentalmente un atto della volontà, un atto della volontà che parte certamente da una certa conoscenza, d'accordo? Ma che poi implica una scelta di stare con, di vivere per, di darsi a. Allora, perché la virtù della carità è la terza virtù teologale? Quindi se sembrerebbe la terza, no? Quindi sembrerebbe che la fede sia importante. No, la fede non è la più importante. San Paolo dice che la più importante e la più grande è la carità. Però la carità non può nascere se prima non c'è la fede. Cioè, nel senso, tu non puoi cominciare ad amare Dio se almeno un pochino non lo conosci. E lo conosci attraverso le verità che ti vengono dalla fede. Ora, noi, chi è Dio? Dio, spero che lo abbiamo capito, è il tutto, è colui dal quale tutto abbiamo ricevuto. Vi ricordate? Io sono colui che sono, colui che tutto è, che tutto ha, che tutto sa, che tutto può. L'inno bellissimo di San Francesco, tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, il nostro Dio unico, vivo. Vero e trino, tu sei amore, tu sei carità, tu sei dolcezza, tu sei bellezza, tu sei temperanza, tu sei tutto, d'accordo? Era San Francesco che diceva Deus meus et omnia mea, mio Dio e mio tutto. Tutti gli amori che noi conosciamo, l'amore materno, l'amore paterno, l'amore sponsale, l'amore filiale, l'amore affettivo, tutti sono contenuti essenzialmente in Dio. Questi nostri amori piccoli che noi viviamo non sono altro che un pallido riflesso dell'amore essenziale che caratterizza la vita divina. Quindi capite che se Dio è il tutto e tu sei perché Dio ti ha fatto essere, tutto ti ha dato, è ovvio che cosa devi fare? Devi dargli tutto. Questo che Gesù dice, devi amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Quindi lo devi mettere al primo posto, Dio viene prima e davanti a tutto. Capite che significa? Se tu non hai messo Dio al primo posto, prima e davanti a tutto, non stai osservando il primo comandamento. Capite? Non è un optional. Cioè, ma sì. Quindi, figuriamoci l'atteggiamento. Facciamo subito alcuni esempi, no? Perché la Chiesa, fin dai tempi del Catechismo, ci ha insegnato che bisogna pregare almeno la mattina e la sera? Perché? Perché come fai a dire che metti Dio al primo posto se non preghi, se non preghi neanche al minimo indispensabile? La mattina e la sera, come fai? È possibile, no? Assolutamente impossibile. Non basta pregare soltanto la mattina e la sera. Se uno vuole amare Dio con tutto se stesso, lo vedremo subito, tra poco, deve pregare molto di più. Ma se non fai almeno quello, dov'è che Dio sta al primo posto? Non esiste, no? Allora, che significa amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima o la tua mente, in altre traduzioni, termini un po' più comprensibili a noi occidentali. Occidentali latini, tra l'altro, e con tutte le tue forze. Allora, cos'è la mente? La mente sono le nostre energie intellettive. Cos'è il cuore? Sono le nostre energie affettive e le forze sono le nostre risorse, energie fisico-corporali. D'accordo? Ora, vi ricordate l'immortale catechismo di Pio X? L'abbiamo visto già in qualche circostanza. Perché ci ha creati Dio? Dio ci ha creati per conoscerlo, cosa che si fa con la mente. Amarlo, l'affetto, il cuore, e servirlo. Per servirlo ci vogliono le forze, ci vogliono le risorse, ci vogliono le energie in questa vita e per goderlo nell'altro. Capite? Non ci ha creati per motivazioni diverse da questo. E se tu non osservi questo comandamento, tu fai un peccato gravissimo perché fallisci il senso della tua esistenza. Guardate che gli uomini sono tutti creati per questo motivo. Quindi, volete una ricetta sicura, ragazzi? Vedete qualcuno che è infelice? Potete stare sicuri al 100%. Lasciate perdere tutte quante le questioni, lasciate perdere psicologie varie, anche se qualcuno si è lamentato, ho detto queste cose in trasmissione a Radio Buon Consiglio. Se tu non sei felice o sei depresso, stai sempre triste, guarda che tu non ami Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Punto e basta. Tra parentesi, dall'osservanza di questo comandamento, lo vedremo oggi, speriamo di riuscire a farvelo capire, dipende tutto il resto. Cioè, perché se il tuo amore verso Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze è vero ed autentico, tu osserverai tutti i comandamenti, nessuno escluso, ma andrai anche oltre, osservi pure consigli, praticherai tutte le virtù e fino al grado eroico, se vivi bene questo comandamento. Attenzione che San Tommaso d'Aquino, il grande San Tommaso d'Aquino, insegnava che questo comandamento non può essere vissuto in questa vita con perfezione da noi comuni mortali. Tranne un'eccezione ha avuto. Chi è che ha vissuto questo comandamento con assoluta perfezione, secondo voi? La Madonna. La Madonna ha vissuto questo comandamento con assoluta perfezione. Noi non lo vivremo mai con assoluta perfezione, ma dobbiamo però sforzarci. Dobbiamo però sforzarci di avvicinarci il più possibile alla perfezione. Allora, adesso li prendiamo tutti e tre questi, cominciando dall'amare il Signore Dio tuo con tutta la mente. Che significa? Allora, bisogna dedicare, ragazzi, ecco, il fatto che voi oggi stiate ascoltando Radio Buon Consiglio, non perché parlo io. Assolutamente, chiunque parlasse, noi stiamo facendo adesso una catechesi, giusto? A che serve una catechesi? Una catechesi serve a farti crescere una conoscenza di Dio, principalmente. Allora, quanto dura Radio Spazio Giovane? Dura un'ora. Tu in quest'ora stai dedicando del tempo a Dio anziché fare altro. Potresti andartene al cinema. Potresti andarti a prendere una birra con un amico, potresti andarti a fare una passeggiata, potresti anche stare a studiare, per carità, potresti sentirti una bella canzone. Ma in questo momento tu, il tuo tempo e la tua attenzione è dedicata a conoscere Dio e ad approfondire quello che vuole. Quindi ti do una buona notizia, figlio caro. In questo momento tu stai amando Dio con la tua mente. Perché? Amare Dio con la mente significa anzitutto curare la propria formazione cristiana. Allora, voi sapete, io parlo con un sacco di gente, ragazzi, confesso molto, sono prete da tanto tempo. Sapete quante volte capita, padre, ma questo è peccato? Ma io non lo sapevo, ma io non lo sapevo, ma io non lo sapevo, ma io non lo sapevo, ma io non lo sapevo. Ora, chiaramente, non saperlo. Ovviamente, diciamo da un punto di vista strettamente morale, diminuisce la responsabilità per il peccato, perché se vi siete sentiti tutte le catechesi di Don Leonardo, abbiamo parlato in altre volte, per fare un peccato mortale non basta la materia grave, ci vuole anche la piena avvertenza, quindi tu devi renderti conto e il deliberato consenso. Non lo sapevo, toglie la presenza piena della piena avvertenza, quindi tu puoi fare anche un peccato molto grave. Ma che non ti è imputabile come peccato mortale a causa dell'ignoranza. Però, c'è un però, attenzione, dice, ah che bello, allora l'ignoranza, rimaniamo nell'ignoranza così non facciamo peccati mortali. E no, ne fai un altro di peccato mortale, contro il primo, perché l'ignoranza crassa, sapete che significa l'ignoranza crassa, quindi quando uno, cioè, tu puoi mica venirmi, cioè, alcune cose macroscopiche, tu non puoi dire io non lo sapevo stando nel cuore leggero, perché quando ti troverai davanti al Padre Eterno, il Padre Eterno ti dirà, figlio mio, non lo sapevi? Ecco, ma tu che hai fatto per saperlo? Hai fatto qualcosa? O no? L'hai fatto o no? Guardate che molte volte, cioè noi quando facciamo i peccati, io me lo ricordo per alcuni peccati commessi in gioventù, purtroppo ragazzi, allora. Io alcune cose non credevo che fossero peccato, perché mi ero fatto anch'io la fede, fai da te. Per questo che faccio sempre tutte quante queste catechesi, perché essendo stato molto cattivo, e purtroppo essendolo anche ancora, anche se in modo diverso, lo conosco anche per esperienza diretta, il cuore dell'uomo. Però, ragazzi, io mi ricordo che quando cadevo in qualche peccato, c'avevo un rimorso di coscienza. Allora, quando ti viene il rimorso di coscienza, sapete qual è l'unica cosa opportuna da fare? È andare a approfondire il discorso. Quindi non mettere davanti le tue idee e dire ma non me ne importa niente, tanto questo per me no, non è che mi convincono tutte le altre sciocchezze che dicono i preti a destra e a sinistra. No, no, tu devi approfondire. E devi approfondire col cuore aperto. Vedete quante volte Benedetto XVI e non ti devi fidare del primo prete che trovi. Scusate se ritorno sempre con questo argomento. D'accordo? Perché oggi, oltre ai preti che danno pochissimi, grazie a Dio, speriamo, scandalo, ci sono un po' più numerosi i preti che io ironicamente li chiamo Don Brodino. Ecco, cioè quelli che fanno tutto facile. Ma no, non ti preoccupare, ma questo non è niente. Dico, io tantissime volte, ragazzi, ve l'assicuro, provate venendo in confessionale, dico, non è niente. Perché quando uno ha uno scrupolo di coscienza dinanzi a una cosa in cui che non, veramente non è niente, non è niente. Ma se una cosa è qualcosa, perdonatemi, quindi non è vero che non è niente, io certamente non gli dirò non è niente, mica me lo mangio, mica lo aggredisco, mica lo giudico, gli dico figlio mio, t'attento che su questa cosa stai lontano dalla legge di Dio e stai lontano dalla legge di Dio anche in modo abbastanza serio, figlio mio. Ma te lo dico perché ti voglio bene. Ora, quante persone si vanno realmente a informare? E quante invece non soltanto che non si informano, ma se lo cercano il Don Brodino di turno, con l'illusione che, ah, ma tanto il prete mi ha detto che questo non è niente, quindi lo posso fare tranquillamente, mi ha pure dato la soluzione. Peccato contro il primo comandamento. Allora, vi accennavo prima a Benedetto XVI. Perché Benedetto XVI ha detto, non troppo tempo fa, in un suo intervento, volete avere una norma sicura di verità? Aprite il catechismo della Chiesa Cattolica. Per cui, se senti un prete che ti dice una cosa strana, cioè una cosa che tanto tu lo sai che è strana, figlio mio e figlia mia che mi stai ascoltando, con me non fate furbetti, eh? Io lo so benissimo che voi vi rendete conto quando vi viene detto una cosa strana. Cioè, se un prete vi dicesse, come mi hanno riferito che è stato detto, sì, ma non ti preoccupare che se convivi non c'è nessun problema, basta che siete innamorati. Questa lo capisci che è una cosa strana, o no? Se recentemente il Cardinal Bagnasco, la settimana scorsa, ha detto esplicitamente niente sesso prima del matrimonio, è uscito così, al TGCom, su telegiornali, la Chiesa ribadisce che la verginità è un dono da custodire e che non è possibile fare nulla prima del matrimonio. Prima del matrimonio, ragazzi, non prima della libera convivenza. Siccome quelli che vanno a fare libere convivenze non vanno a fare libere convivenze perché recitano tutto il giorno il rosario insieme dalla mattina alla sera, altrimenti potrebbero anche fare la libera convivenza, eh? Perdonatemi l'ironia. Allora, che tu sia andato da quel prete a dirti: ma non ti preoccupare, figlio mio, figlia mia, vi volete bene? E vabbè, poi quando potete vi sposerete, ti raccampate, preoccupate. Ma posso farmi la comunione? Ma certo, tranquillo, te preoccupare. Fossero questi i problemi, sono ben altri i peccati. Non siamo scusati, questa è ignoranza crassa. Apri il catechismo della Chiesa Cattolica e vai a controllare. Dopodiché, torni da quel prete, te lo dico io di fare così: gli porti il catechismo e gli dici, scusi padre, lei è ministro della Chiesa Cattolica o è ministro di se stesso? Perché nel catechismo della Chiesa Cattolica non c'è scritto quello che dice lei. Vuole che faccia una letterina al suo vescovo? Vuole che faccia una letterina alla Santa Sede, alla Congregazione della Dottrina della Fede, per segnalare che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice questo e lei dice quest'altro? Devo fare così? O ci pensa lei a ristudiarselo un po', a ripassarselo un po' e a evitare di indurre le anime al male e a portarle all'inferno e alla rovina grazie alla sua grande scienza personale e che non ha nessun titolo? Anzi, che è ancora più grave perché lei abusa del suo sacerdozio e della buona fede che le persone ripongono in lei per traviare le anime. Fate così, poi ditegli che ve l'ho detto io di farlo, tanto non c'è nessun problema. Fate così, dovete farlo, ragazzi. Perché questo non è poi non lo sapevo, ma la tua responsabilità è aggravata perché tu ci avevi rimorso di coscienza, d'accordo? Sei andato a chiedere aiuto dove sapevi che non l'avresti trovato per essere confermato nel male, non per uscire fuori dalla menzogna, amare Dio con tutta la mente e per aprirti alla verità. Quindi attenzione, la formazione va fatta e va fatta bene. Voi dovete farvi formare da gente che sia fedele alla Chiesa e a Gesù Cristo. Non fa niente che tu porti la veste d'alare addosso, e neanche il saio francescano, e neanche qualunque abito religioso. Tu devi essere fedele a ciò che la Chiesa e i Santi insegnano, se no la tua autorità è nulla da un punto di vista dottrinale. Quando amministri i sacramenti, lo sapete benissimo che un sacerdote dovete sempre rispettarlo, dovete sempre onorarlo, sempre, anche se fosse di cattiva dottrina. Il rispetto e l'onore è un'altra cosa, va dato al sacerdote in quanto ministro di Cristo, che comunque rimane tale, per quello comunque battezza, assolve. A volte a sproposito, ma comunque assolve e celebra la messa. E quindi partecipa del sacerdozio di Cristo e dei suoi poteri, e quindi in quanto tale va sempre rispettato e onorato. D'accordo? Ma non va ascoltato quando dice le sciocchezze. Questo lo dice anche Gesù nel Vangelo, sui cattivi maestri. Fate quello che dicono, ma non fate. No, questo non era sui cattivi maestri, questo era sui cattivi testimoni, su quelli che sono peccatori. Invece su quelli che non vanno neanche ascoltati, valgono i moniti di San Pietro. Sono maestri di errore e di eresia, non vanno ascoltati. L'altra dimensione dell'amare Dio con tutta la mente, ci avete mai pensato? È saperlo adorare nei suoi disegni, anche quando per noi sono dolorosi e incomprensibili. Quanta gente dice: ah, Dio è buono, eh? E come mai che mio fratello gli ha preso un tumore che c'aveva 20 anni? Dov'è Dio? Ah, Dio è buono, vero? E come mai che i bambini muoiono di fame nel mondo? Come mai? Dio è buono, eh? Ah, e come mai a me io mi sono morti mio padre e mia madre quando ero piccolo, non li ho mai conosciuti? Dov'era Dio quando sono morti? Andiamo avanti? Perché Dio ha permesso una cosa di questo genere? Andiamo avanti, ragazzi? Ci è mai capitato di pensarlo almeno una volta in vita nostra? Allora, questo vuol dire non amare Dio con tutta la mente. Perché la nostra piccola mente è certo che dinanzi a cose di questo genere, apparentemente, se io mi metto a ragionare, sembrerebbe che c'è qualcosa che non va. È qui che interviene la fede. Se tu credi che Dio esiste e che Dio è buono e che Dio è provvidente e che tutto volge al bene, anche il male, che lui permette sempre per una motivazione di bene che tu non conosci, anche dinanzi a quelle cose dirai: benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore. Benedetto sia il Signore. Quindi sottometterai la tua piccola e limitata intelligenza all'infinita intelligenza di Dio, adorandolo. L'adorazione, ne abbiamo già parlato, adorare non è soltanto inginocchiarsi davanti al Santissimo Sacramento, cosa assolutamente importante e fondamentale, ma quel gesto di adorazione dovuta. Poi tu devi incarnarlo nella tua vita, cioè tu Dio lo devi adorare in quello che dispone per te, senza chiedere perché e senza ribellarti ai suoi voleri. Vedete che belle, quindi tutte le volte che tu ti sei ribellato. C'era una canzone di Vasco Rossi, blasfema come non mai, è contraria al primo comandamento, che si chiamava Portatemi Dio, bella roba. Metteteci Dio sul banco degli imputati. Ah, capiamo. Cioè, l'Altissimo, il Padre Eterno e l'Eterno si fa giudicare da un uomo moralmente assai discutibile come Vasco Rossi. Deve dare spiegazioni a Vasco Rossi, il Padre Eterno, secondo voi? Gli voglio raccontare di una vita che ho vissuto e che io non ho capito. Accivicchia, povero Vasco. Uè. Allora, l'esempio di come si ama Dio con la mente è anche dinanzi è Abramo. Per questo che, vedete, San Paolo nella lettera ai Galati presenta Abramo giustamente come straordinario esempio di fede. Abramo che partì senza sapere dove andava, eccetera, eccetera, che ha avuto il figlio della promessa, eccetera. Però poi San Giacomo, siccome qualcuno aveva frainteso queste cose, dice: oh, ma Abramo non è mica stato giustificato, quindi non è mica stato giusto solo per la sua fede, ma per le sue opere. Ci ha portato Isacco al Mori in sacrificio al Signore. Dice, ma come? Signore mio, mi hai promesso un figlio, che già aveva fatto dei piccoli dubbi di fede, Abramo, perché un figlio l'aveva fatto con Agar, Ismaele, perché la moglie era anziana, dice, ma sì, buonanotte, ma adesso andiamo a fare. Dopo un po' di tempo che non veniva, diceva facciamolo con lei perché forse ho capito male. Poi è venuto Isacco, dice: ma come? Miracolosamente, tu mi hai detto, Signore, mi hai dato Isacco con una moglie che aveva oltre 80 anni. Hai detto che da questo figlio verrà una discendenza numerosa come la sabbia del mare e come le stelle del cielo. E mo mi chiedi di portarlo in sacrificio lui, e poi mi chiedi di fare un sacrificio umano. Quando i sacrifici umani, tu stesso mi hai detto che sono assolutamente invisi a Dio. Devo ammazzare mio figlio poi questo sacrificio umano. Abramo ha preso e è salito su un monte. Ecco. Ecco come si ama Dio con tutta la mente. Che è successo poi? Che Isacco è tornato vivo e vegeto. Però questo atto, capite, assolutamente eroico, non è certamente un atto semplicemente di fede, eh? È stato un annullare, come dire, anche un uso, come dire, ragionevolissimo delle umane facoltà per sottometterlo agli incomprensibili decreti di Dio. E sapete quante volte ci capita nella nostra esistenza? Poi, secondo punto, abbiamo amare Dio con tutto il cuore. Significa dargli il primo posto negli affetti. Attenzione, adesso lo vedremo subito. Gesù ha detto chiaramente nel Vangelo: chi ama il padre o la madre più di me, attenzione, il padre o la madre più di me, non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. E ha anche detto: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Luca 14, 26, mentre prima ho citato Matteo 10, 37. Sono parole forti di Gesù. Chi di noi ci pensa? Vi ricordate l'episodio narrato da San Luca? Gesù chiama uno, dice: tu vieni e seguimi. Dice: lasciami prima andare a seppellire mio padre. Ma insomma, a seppellire mio padre? Quale persona ragionevole avrebbe detto di no? Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Tu va e annunzi il regno di Dio. Terribile, no? Cosa significano queste cose, ragazzi? Per questo dobbiamo conoscere bene il Vangelo. Il Vangelo, noi trasmettiamo da Radio Buon Consiglio. Qui sono i francescani e le francescane dell'Immacolata. San Francesco è stato un grande uomo evangelico. San Francesco ha preso il Vangelo e l'ha osservato alla lettera, riga per riga. Sapete com'era il suo motto, no? Ad litteram sine glosse. Allora, qui si fanno innumerevoli peccati che, pur essendo ordinariamente commessi per debolezza, non sono comunque per questo meno gravi. Ma cosa vuol dire per un genitore amare Dio più del figlio? Per esempio. Cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, lasciarlo libero di seguire la propria vocazione, specialmente quella alla vita consacrata. Sapete quanti genitori fanno ostacoli in questo? Anche devoti e apparentemente santi, e io li ho conosciuti, e si faranno tanto di quel purgatorio che Dio solo lo sa. Amare un figlio, amare Dio più di un figlio, Dio vuole, te l'ha affidato quel figlio, non perché tu lo faccia crescere come un viziato, ma perché tu lo educhi. Ora, molte volte, educare un figlio costa sacrificio, perché tu il figlio lo devi contrariare in tante cose. lo devi correggere, a volte lo devi castigare. Perché tutti quanti i genitori di oggi non lo fanno? Perché non amano Dio più dei figli, perché hanno semplicemente un amore malato e morboso verso quelli. Perché identificano il male con una piccola sofferenza data a scopo correttivo, non imparando nulla da quello che fa il Padre Eterno, perché il Padre Eterno le sofferenze ce le manda e come in questo mondo, ma ce le manda per la nostra correzione, si trova scritto una lettera agli ebrei, perché a volte non c'è altro sistema per correggere un uomo che mandargli una piccola tribolazione, così come a volte non c'è altro sistema per correggere un figlio che castigarlo, castigarlo in senso etimologico, castum agere, ti rendo casto, cioè ti faccio diventare santo, non è che uno è sadico, quindi che fa del male o castiga per il gusto di veder soffrire, questo è un malato di mente uno che fa così, ma lo fa per una motivazione più grande. E se non lo fai, tu non stai amando tuo figlio, nemmeno lui, tu stai amando solo te stesso. E se hai un amore verso tuo figlio, è un amore malato. Dio lo devi amare prima di tuo figlio. Io ci ho fatto gli incontri. La Bibbia usa dei termini che non bisogna chiaramente prendere alla lettera, se no ci chiamiamo il telefono azzurro, però bisogna cogliere il concetto. Nei libri sapienziali si trova scritto: se ami tuo figlio, usa il bastone. Mica vuol dire che devi spaccargli la testa o devi essere violento, ma il concetto ti dice, no? Cioè, se vuoi educarlo, in alcune circostanze, quando è inevitabile, quindi come ultima cosa, dovrai ricorrere a dei castighi. Se non gli vuoi menare, non lo so, non lo fa uscire, non gli fa vedere la televisione, ma non lo so adesso non lo stiamo vedendo su, ma lo devi fare. Vediamo il caso contrario. Che cosa significa per un figlio amare Dio prima del genitore? Vuol dire che deve obbedire a Dio, non ai genitori, quando un genitore gli impedisse di seguire il Signore o di fare la volontà di Dio. Supponiamo che uno ti capita un padre matto, matto in senso, come dire, in senso generico, non offensivo, e si mettesse in testa al figlio di dirgli: tu a messa la domenica non ci vai. Che sono tutte stupidaggini, i preti dicono tutte quante cretinate. Io non voglio che tu vai a messa, non te ne andate a messa perché con te ci parlo più, te faccio manco mangiare a pranzo la domenica. Che cosa deve fare un figlio secondo voi? È un caso limite, ma ci sono anche casi molto meno limiti, eh? Tu trovi un confessore santo, d'accordo? Io ho conosciuto situazioni di questo genere, per questo che faccio questi esempi. Tuo padre e tua madre si mettono in testa, siccome quando, guardate ragazzi, quando ti capita qualche di imbattersi in qualche persona un po' così, non tutti pensano che sia santo, anzi, molta gente, quando era io, Padre Pio, pensava che fosse il demonio incarnato. Anche in segni autorità ecclesiastiche pensavano che quello fosse un povero pazzo, un povero isterico, che tra l'altro si era procurate da solo le stigmate attraverso le sue intense preghiere, per cui a forza di stare a pensare alla passione di Gesù Cristo gli si erano aperte le vene. Pensate un po', ma ecclesiastici di alto livello. Quindi, vi faccio un esempio, facciamo Padre Pio che è inequivocabile. Io, 16 anni, ritengo che Padre Pio con le stigmate sia santo, voglio andarmi a confessare da lui e mio padre mi dice: tu da quel pazzo scatenato non ci vai, io te lo proibisco. Cosa bisogna fare secondo voi? Capita anche oggi, capitano queste cose qui, eh. Purtroppo non ci sono tanti padre Pii in giro, ma basta che una persona sia un minimo assennata, perché si scatenano queste cose? Perché il demonio gli fa la guerra. Ma Dio viene davanti a tutto, per cui se tu hai trovato un confessore che fa bene alla tua anima, che ti fa crescere, che ti fa crescere nell'amore di Dio, nella santità, gli dici: non mi sembra che sto assolutamente facendo nulla di male, non voglio assolutamente ledere la tua autorità su di me, né disobbedire, ma mi dispiace tanto, tu vieni dopo il Padre Eterno, caro papà, perché prima di obbedire a te, che è il quarto comandamento, io devo amare Dio con tutto il cuore. Quindi ti prego di non impedirmi, altrimenti il tuo impedimento sarà come se non ci fosse. San Tommaso d'Aquino, che ho citato prima, è stato dal padre rinchiuso per un anno dentro le segrete del suo castello, in quel del Frusinate, a Roccasecca dei Volsci, perché lui voleva diventare domenicano, domenicano della prima ora. I domenicani della prima ora erano un ordine mendicante simile a San Francesco, quindi non c'avevano niente. Lui era un nobile, era un conte. Allora il padre gli aveva detto, dice, senti San Tommaso, anzi, senza San, Tommasino caro, tu diventi, non andare in mezzo a quegli straccioni lì, miserabili, pazzi, furiosi. Te lo dico io quello che devi fare, tu diventi prete, vuoi sicuro signore, diventi prete, così dopo diventerai vescovo, dopo diventerai cardinale, cioè avrai, come dire, una vita consona alla tua nobiltà. Che cattivo San Tommaso, non poteva obbedire al papà e farlo contento, no? San Tommaso gli ha detto: no, io divento domenicano. Gli ha detto: ah sì? E io ti chiudo in galera. L'ha chiuso in galera, dopo un anno è scappato e è diventato domenicano. Vedete, Santa Chiara non è scappata di casa per andare a seguire San Francesco? Quante ce ne stanno di cose di questo genere? Io ho conosciuto ragazzine, l'ho viste, me l'hanno dette, che sono partite da isole italiane con il biglietto di sola andata per un monastero di clausura X. Senza neanche la valigia, scappando di casa. Non è che la madre superiore, grazie a Dio, gli ha detto: ma figlia mia, che hai fatto? Ma tornatene a casa, ma quel povero papà, quella povera mamma. No, non lo fate entrare in monastero. Qui non avevano neanche il pigiama per dormire la notte, non avevano neanche un cambio, capite, neanche le cose intime. Queste non sono follie, questo è semplicemente amare Dio con tutto il cuore. Vediamo chi odia, chi viene a me e non odia la moglie o il marito. Allora, supponiamo che c'è un matrimonio, poi ne tratteremo di questo argomento. Uno dei due coniugi non vuole avere figli. Cosa facciamo, ragazzi? Io sono una donna e prendo la pillola contraccettiva. Io sono un uomo e uso il condom. Chiaramente mia moglie non vuole, perché vorrebbe ubbidire alla legge di Dio, che sapete benissimo che prescrive, poi lo rivedremo quando parleremo del sesto comandamento, che quando ci si unisce bisogna non disgiungere l'aspetto unitivo da quello procreativo, quindi bisogna essere aperti alla vita. Cosa faccio io per amore di mio marito? Però poi mio marito si arrabbia. Oppure, poi mia moglie si arrabbia, io ho conosciuto casi anche contrari, mia moglie mi ha detto: no, no, no, no, i figli li faccio io, quindi tu cerca di non rompere scatole, io prendo la pillola e, no, e non mi affligge, perché dopo rimango incinta io, rimango incinta, mica tu me lo porto io per 9 mesi nel grembo, mica tu. Allora che facciamo? Che facciamo? Bisogna amare Dio, allora in quel caso, quello che, io sto facendo volontariamente delle situazioni limite, però per far capire cosa vuol dire amare Dio con tutto il cuore. Quanto è grande l'amore di una moglie verso il marito? Deve essere grandissimo. Quanto è grande l'amore di una madre verso il figlio? Deve essere grandissimo. Di un figlio verso il padre? Deve essere grandissimo. Ma prima di questi viene l'amore di Dio, per cui se tu mi chiedi per amore tuo di farmi andare contro la legge di Dio, la risposta è no, mi si spaccherà il cuore, perché si spacca il cuore. Per questo che dice amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, ma lo devi fare. Se vi leggete la storia di Santa Perpetua e Felicita del martirio, Felicita era una nobildonna romana, figlia di un senatore, ha affrontato il martirio con dei figli piccoli neonati che gli erano strappati dal grembo prima di portarli al martirio. Il padre è andato a supplicarla. Dice: pazza, furiosa, quale Dio è il tuo? Può un Dio andare a chiedere che una madre muoia sbranata viva con un bambino di 6 mesi? Ma non lo vedi? Non lo vedi come piange? Non lo vedi come cerca il tuo seno? Sei senza cuore, sei un'ingrata. Io non crederò mai a un Dio così crudele. Che avreste fatto voi? Quella è andata al martirio. È morta di dolore, prima di dolore nel cuore, prima di morire sbranata. Perché vedersi strappato un bambino di 6 mesi e saperlo da solo, immaginate che dolore per una madre. Ma l'ha fatto. E non era matta, non ha fatto una pazzia, ha fatto quello che in quella circostanza drammatica si doveva fare. Andate a leggere la Bibbia, il martirio dei sette Maccabei, ai tempi di Antioco Epifane, a una povera donna gli hanno ammazzato sette figli sotto gli occhi per farle rinnegare la fede. E lei diceva ai figli: non v'azzardate a rinnegare la fede per paura di me. Gliel'hanno massacrati, gli hanno tagliato la lingua, adesso non mi ricordo, tagliate le membre, gli hanno fatto un'ecatombe, l'hanno ammazzata per ultima per farle soffrire. Il martirio di vedersi morire i figli davanti agli occhi. Capite, ragazzi? E così veniamo al terzo punto. Amerai il Signore Dio tuo con tutte le tue forze. Allora, nella lettera agli ebrei ci sono scritte queste parole: non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato. Sangue. Il peccato non si fa, ragazzi. E se per questo io devo sputare sangue, dicono a Roma, lo si fa. Mi ripeto. Io vivo a Latina, Santa Maria Goretti è morta ammazzata da 14 punte ruolate per non fare un peccato impuro. E ha fatto quello che si doveva fare, il sangue per lottare contro il peccato. Questo vuol dire amare Dio con tutte le forze. Col male non si scende a compromesso, ragazzi. Mai, e guai anche a livello politico, in tanti lo fanno, chi fa i compromessi morali. Il male si combatte con tutte le forze. I tempi sono cambiati, continuano a dire oggi. Gesù Cristo è sempre lo stesso, dobbiamo rispondere. Il male è male, sempre, comunque, dovunque. Il male non deve essere fatto, il male non deve essere approvato, non deve essere consentito. Non deve essere nemmeno tollerato quando è possibile evitarlo. Mai, in nessun modo e per nessun motivo. Va denunciato e combattuto con coraggio. Amerai il Signore Dio con tutte le forze. Ci servono i leoni tra i figli di Dio. Non le gazzelle, non le galline, non i conigli, non i pulcini spennacchiati, bagnati, non le lepri che scappano. Non i timidini. Ecco, guai a quei genitori permissivi, per esempio, che sono la causa della rovina dei figli. Perché? Amerei il Signore Dio con tutte le forze. Dicono: padre, ma lei non sa che fatica che si fa oggi, devi fare la guerra tutti i giorni. Se fa. Se non c'è altro, si fa. Affronti le lotte e le ribellioni conseguenti a un'educazione cristiana, e in certi punti l'educazione cristiana è severa, c'è niente da fare. Genitori che mandano in giro le figlie vestite mezze nude, io quando vedo una ragazzina vestita mezza nuda non me la prendo con lei, me la prendo col padre, me la prendo. Perché ad avere se quella era figlia mia, se andava in giro vestita così. Genitori che mandano i figli o le figlie in vacanza col fidanzato o con la fidanzata. Ma ormai lo fanno tutti, che non glielo posso mica impedire. Lavora, se la paga da sola. Ah sì, se la paga da sola. E dove abita poi? Come si è pagata la vacanza? Vuol dire quando torna si paga l'affitto alla casa sua. Perché se stai dentro casa mia, queste cose non si fanno. Padre, ma lei è troppo rigido, lei è esagerato. Tranquillo, tu puoi anche pensarla così. Come abbiamo visto prima, le idee, in quanto idee, anche se sbagliate, vanno rispettate, ma non è così. Amare Dio con tutte le forze, oltre a quello, vuol dire, per esempio, offrire il nostro lavoro. Nel senso che un cristiano non soltanto lavora onestamente. Questo è grave, la disonestà nel lavoro, il non pagare i debiti, poi lo vedremo, il non eseguire i lavori a regola d'arte, il non pagare subito qualcuno che ha lavorato per te, poi lo vedremo a suo tempo. Se tu sei figlio di Dio, ami Dio con tutte le forze, tu stai seduto sulla tua scrivania, non esiste che io vado all'INPS. Adesso non ce l'ho con l'INPS, tanto per dirne una, facciamo la ASL, facciamo il comune, facciamo il catasto, quello che volete. Entro in un ufficio alle 10:30 della mattina e trovo la scrivania vuota. Dove sta quello l'impiegato che deve stare lì? Ma Ah, non lo sappiamo, andava dal parrucchiere, andava a fare il caffè. Quello è amare Dio con tutto il tuo lavoro? Con tutte le tue forze? Allora, soltanto lavora onestamente e molto, non troppo però. Ma lavora in obbedienza a Dio. Il lavoro va fatto bene, ragazzi. Anche il mio di prete va fatto bene. Tu non puoi presentare alla gente lavori fatti male. Io in questi giorni parlerò anche a giovani studenti universitari, dicendogli bene, state attenti, voi dovete, i cristiani sono dei lavoratori eccellenti, sono degli studenti con tutti i 10, con tutti i 30 e lode, cioè certamente può succedere un ragazzo, una ragazza che non è un'intelligenza vivissima e non ci arriva, ma i cristiani sono sempre stati nel lavoro elementi di spicco. Fare le cose tanto per farle, raffazzonate, fatte male, non è atteggiamento. Ma secondo voi Gesù Cristo, come li faceva i mobili? Un armadio fatto da Gesù Cristo, pensi che fossero uno schifo? Un relitto? Provate a pensarci. O la Madonna come cucinava secondo voi? Faceva le sbobbe, così dicono dalle nostre parti, faceva le cose che facevano, vabbè, forse qualche volta facevano qualche fioretto e qualche digiuno, d'accordo? Ma anche una donna di casa, cucinare bene non è per far fare peccati di gola agli altri membri della famiglia, ma se tu sei la casalinga, quello fa parte del tuo lavoro ed è obbedire a Dio. Anche dentro i monasteri o dentro i conventi. Il cuoco e la cuoca devono cucinare bene, devono cucinare. Poi, se una suora vuole fare a tavola le sue mortificazioni, ci pensa lei. Chiederà il permesso, non si mangerà il pane, non ci metterà il condimento, non si berrà il vino, non lo so che altro fa, mangia un pochino di meno, quello che gli piace, mangia un po' di più quello che non le piace. Ma non è che tu gli presenti la sbobba. Scusatemi. Quindi, si offre a Dio il proprio lavoro, fatto bene. E fatto bene, ti darà anche delle, e parte dei tuoi soldi li darai ai poveri. Amare Dio con tutte le forze, anche con i soldini significa, tutti possono fare l'elemosina, ci sta la vedova, l'obolo della vedova nel Vangelo, anche i poveretti. Darai parte del tuo superfluo ai poveri, darai parte dei tuoi super, del tuo superfluo alle necessità della Chiesa. Infine, amerai il Signore tuo Dio con tutte le forze. Vuol dire che se necessario noi siamo pronti al martirio. Non soltanto al martirio per la fede, al martirio cruento, ragazzi. A farci ammazzare, siamo stati cresimati noi. Quindi l'amore di Dio, chi è il forte per eccellenza? Il martire, che neanche dinanzi alla morte si piega. E vi ripeto, io amo concludere, che siamo arrivati alla fine, desidero concludere. Ribadendo ancora e facendo anche un altro esempio di due grandi testimoni del secolo scorso. Santa Maria Goretti è stata morta ammazzata non per la fede, ma per la purezza. È martire della castità. Santa Giovanna Beretta Molla, di cui io personalmente sono devotissima, è martire della maternità. Altro che tutte quante le schifezze e le porcherie che fanno adesso in giro. Io ho visto un documentario, vi invito a guardarlo, non credo averlo seminato in giro da qualche parte. O sul mio canale di Gloria o sul mio canale YouTube, tanto è un documentario amatoriale, ma bello, dove a un certo punto, oltre all'intervista con il marito che ancora era vivo, il documentario è un pochino datato, fanno un'intervista al fratello sacerdote. Sapete cosa dice? Loro sono del nord Italia, dice la Gianna, i figli. La Gianna pregava per avere i figli, pregava. Altro che tutte le cose che fanno oggi. Pregava. E quando si accorgeva di essere incinta, faceva il Te Deum, faceva dire la messa di ringraziamento, faceva suonare le campane, chiamava tutti, grandi banchetti, grandi feste. Altro che oggi, che se uno diventa incinta, la fine del mondo, è successa una tragedia più grande di questo mondo, adesso che facciamo? Non arriviamo alla fine del mese, e poveri noi, e tocca abortire. Amerai il Signore di Dio con tutte le forze. Ed è morta anteponendo la vita della quarta figlia fatta in 6 anni, perché così sono le famiglie cristiane, così. Il resto sono caricature. Certo, io conosco alcune famiglie molto bene dove tanti figli non gli sono venuti, d'accordo? Ma sono una minoranza, sono una minoranza. Quindi sempre aperti alla vita, ma io conosco famiglie aperte per sempre alla vita che sono rimasti con due figli. Perché se il Padre Eterno non te li manda, a volte hanno concepito ma non hanno portato avanti la gravidanza. Quindi amare Dio con tutte le forze vuol dire ti trovi come Santa Giovanna Beretta Molla? Anche l'apertura alla vita non è secondo voi, oltre che il sesto comandamento, una forma di amare Dio con tutte le forze? Quali sono i miei limiti? Non lo so. E io da prete che poi posso mettere dei limiti alla Divina Provvidenza? E se Padre Pio confessava 16 ore al giorno? Se sarà stancato o no? Amava Dio con tutte le forze oppure no? Uno così. Poteva secondo voi Padre Pio dire no, adesso mi sono stancato, basta, ho già troppi penitenti, quindi tu per favore te ne vai a casa. Bella roba, no? Ma 16 ore al giorno di confessionale, voi avete idea? Io lo so, non ho mai fatte 16, 8-9 l'ho fatte. Guardate che dopo 8-9 ore di confessionale tu esci fuori con la testa completamente massacrata, eh? Ma se Dio te lo chiede lo fai. Amerai il Signore Dio tuo con tutte le forze. Ricordiamo fratelli, chiudiamo il primo comandamento. L'amore di Dio viene prima e davanti a tutto. Soltanto chi ama Dio in questo modo osserverà tutti i comandamenti. Mi dovrò sforzare per osservare i comandamenti? Amo Dio con tutte le forze. Dovrò formarmi bene per capire quello che Dio vuole? Amerò Dio con tutta la mente. Dovrò essere capace di sacrificare ogni cosa pur di osservare la legge di Dio? Amerò il Signore Dio con tutto il cuore. Quindi capite che chi vive questo, vive tutto. Perché chi ama Dio con tutto se stesso amerà tutti e in tutto e per tutto farà sempre ciò che Dio vuole. Io vi do la mia benedizione, vi do appuntamento se volete a martedì prossimo. A tutti, Ave Maria.